Questa traccia è dedicata a Jean-Pierre e a chi come lui vive per la strada senza un tetto. Per la strada non ha nulla a parte una coperta in pile, per qualcuno uno straniero cancellato come un file, che non riceve posta né risposta non è mail, tanto lui si crede libero proprio come un freestyle. Vorrebbe un cambiamento ma vedi impoverimento, non può essere contento perché adesso sta sul lastrico. Sente il cemento, ci si appoggia col suo mento, se dorme sul pavimento il suo risveglio sarà drastico. E attorno a noi tutto il mondo che consuma, mentre che lui solo mozziconi fuma. E non profuma di proposte positive, né proventi né parenti, neanche viaggi alle Maldive. Qua solo il marciapiede potrà essere il suo rete, la sua casa resta solo confinata a una parete. Qua la carità non gliela fa nemmeno il prete, in una strada di città muore di fame e di sete. E quando è sera nel freddo della stazione beve per la delusione di stare su una panchina. Ecco, chi spera che la sua immaginazione tolga l'emarginazione da una vita che continua. La strada cambia i tuoi pensieri, però non cambia la tua rabbia. Qui tutto cambia e molto impari, però non cambia la tua gabbia. La strada cambia i tuoi pensieri, però non cambia la tua rabbia. Che tutto cambi, tu ci speri, però non cambia questa gabbia. Qua tutto cambia, tutto muta la sua forma, pure un granello di sabbia per la strada si trasforma. Svanisce la sua orma quando muore il suo karma, e dentro questa calma apparente diventa salma. Il suo corpo è debole, fragile nell'interno, lui ricarica le forze per affrontare l'inverno e prega il Padre Eterno di ricevere un aiuto, perché vive su un inferno che non si è mai meritato. Ogni giorno uguale, che sia Pasqua o sia Natale, c'è la strada che lo assale nella vita da crociar. Pensa alla famiglia, alla figlia che c'è da car, è qui per lavorare, non può entrare neanche al bar. La vita è dura se vivi vita in chiusura, per me la più dura è quella senza quattro mura. Se non hai neanche un lavoro e vivi nella spazzatura, se non fai parte del coro per gli altri non sei natura. E questa notte fa botte con i pensieri per gli scheri che sono più neri della propria rabbia. Pochi sentieri, pochi aiuti umanitari, pochi seri amici cari, la sua vita qui non cambia. Il freddo picchia, quindi si rannicchia dentro una nicchia ricoperto dai cartoni, dove una bottiglia resta l'unica famiglia e gli consola le emozioni distruggendo gli neuroni. La strada cambia i tuoi pensieri, però non cambia la tua rabbia. Qui tutto cambia e molto impari, però non cambia la tua gabbia. La strada cambia i tuoi pensieri, però non cambia la tua rabbia.